Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Apple. Allora, eccoci qua, come detto è il momento di Crowd Me Up e allora siamo alla ricerca e ve li proporremo tra pochissimo di due progetti che sono stati scelti dalla piattaforma di Appela e che cercano il nostro, il vostro aiuto. Cari ascoltatori, abbiamo i due ascoltatori che come sempre sono la nostra giuria popolare, Alessandro da Modena. Di nuovo buongiorno e benvenuto Alessandro. Buongiorno. È anche un po' la prova microfoni, è per questo sì. che vi chiamiamo. 1, 2, 3 prova. E poi anche Luca da Bergamo che abbiamo appena sentito. Eccolo qua, Luca, ci sei? Buongiorno, sì, ci sono. Allora, grazie per essere con noi, restate belli concentrati perché andiamo a presentare il primo dei due progetti. Vai! E allora, si chiama il primo progetto Restart for Smart ed è il progetto di un gruppo di 50 studenti dell'Università La Sapienza di Roma che vorrebbero raccogliere 10.000 euro per poter realizzare una solar house, in pratica il prototipo di una casa smart interamente alimentata da energia solare. Questo prototipo avrà l'onore di rappresentare l'Italia al Solar Decathlon, le Olimpiadi Universitarie dell'Architettura Sostenibile del 2018 che si faranno a Dubai. Ce ne parla il professor Marco Casini. Eccolo qua, buongiorno Marco. Buongiorno, buongiorno a tutti, eccomi. Allora, tu fra l'altro Marco sei professore all'Università La Sapienza, appunto, e sei capo progetto di questa spedizione, di questi ragazzi. Alle Olimpiadi dell'Architettura Sostenibile. Perché, perché possiamo e dobbiamo sostenere questo progetto, Restart for Smart? Dunque, questo progetto è importante per diverse motivazioni, ma direi tre in particolare. La prima è il tema affrontato dal progetto che riguarda l'efficienza energetica, le fonti energetiche rinnovabili in un momento così critico per il nostro pianeta dal punto di vista dell'inquinamento ambientale e della lotta ai cambiamenti climatici. Il secondo è il programma di formazione e ricerca che coinvolge direttamente i giovani in un contesto internazionale su un caso pratico, quindi consentendoli di mettersi in gioco direttamente, di offrire un contributo attivo alla causa. Il terzo motivo è il tema specifico del progetto, quello della casa d'abitazione, che da sempre costituisce la base di ogni società e che sempre più oggi ha bisogno di case sicure, sane, confortevoli, ad elevata efficienza energetica, a basso impatto ambientale e che siano a costo di contenuto, di costruzione e di gestione. Tutto questo all'interno di un laboratorio permanente di formazione ed educazione del pubblico a un uso più consapevole dell'energia e allo sviluppo sostenibile del nostro pianeta. Bravo Marco, che sei un professore, sei abituato a stare nei tempi giusti. Nei tempi precisissimi, cioè, sul gong, direi, sul gong. Ti sei proprio fermato. Senti, io la domanda te la devo fare, anche se è una domanda inutile probabilmente. Perché ricorrete al crowdfunding? L'università non ha fondi per sostenere questo tipo di progetti innovativi? Ride. In realtà perché questa competizione richiede proprio da parte dei partecipanti un impegno a 360 gradi anche nel reperire le risorse, i fondi per portare avanti il progetto, cioè all'interno della gara, una gara nella gara è quella di autofinanziarsi. Quindi chi più riesce a coinvolgere, a fare massa, a fare gruppo. Esattamente, poi può anche realizzare il progetto più bello perché è più bravo degli altri a convincere sulla finalità del progetto, a raccogliere quindi consensi, fondi, va supporto bene per portare avanti le idee. E questo è il Solar Decathlon. Va bene, caro Marco, grazie. Resta grazie con noi, così come anche i nostri ascoltatori Alessandro e Luca, restino belli concentrati perché andiamo al secondo dei due progetti. Vai. Si chiama, siamo in tutto altro ambito, La Vera Cucina di Casa a portata di app ed è una campagna nata per sostenere una nuova iniziativa che si chiama Mamma Meal, una nuova startup che mette insieme chi cucina a casa, sa farlo, beato lui, con chi invece vuole gustare piatti genuini. È un'idea semplice, ovvero consegnare a domicilio il cibo fatto in casa favorendo il contatto diretto tra chi riceve i piatti e chi li prepara. L'obiettivo della campagna è fissato a 10.000 euro. Ce ne parla Anna Laura Diaco di Mamma Meal, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. E allora, anche a te Anna Laura un spazio, un tempo di un minuto, poco più, per raccontare come e perché possiamo sostenere questo progetto. Certo. È importante sostenere Mamma Meal perché ognuno di noi conosce almeno un mago della cucina che sia la mamma, lo zio, la vicina di casa che magari non si conosce ma si sentono i profumi dei suoi piatti per le scale, oppure l'amico che quando vi invita a cena vi descrive i piatti come uno chef stellato. Ecco, Mama Meal permette a tutte queste persone sia di trasformare la loro passione in una nuova possibilità di guadagno, sia di condividerla utilmente con chi vive e lavora intorno a loro. D'altra parte, ognuno di noi chissà quante volte si trova ad aver voglia di un buon piatto fatto con amore, ma magari non ha voglia di mettersi ai fornelli o non ha tempo, oppure vuole fare bella figura con qualcuno presentando in tavola una cena fatta a regola d'arte, ma non ha modo o tempo di prepararla. Ecco, in questi casi basta scoprire i cuochi Mama Meal, si inserisce il proprio indirizzo su mamameal.com e si possono ordinare online i piatti proposti con passione dai cuochi Mama Meal della propria zona. Arrivano direttamente a casa con i sacchettini Mama Meal pieni delle loro bontà genuine. Hai detto cuochi perché possono essere anche maschi o devono essere cuochi? Sì, anche maschi. Ci mancherebbe. Vabbè, no, però Mama Meal, sai com'è? Cioè uno dice, mamma, pensa, dici, che giustamente. Sia, pensa che sia un marchio di garanzia. Ma le donne, io invece volevo chiederti anche i cuochi, certo. Un'altra cosa, ma chi consegna poi questi piatti? Nel senso che uno ordina, magari è anche una persona abbastanza vicina, ma chi è che ti porta poi le... La maggior parte dei casi il cuoco stesso. Il cuoco stesso che crea anche proprio un'esperienza. Bello, di così condivisione ci si incontra. Col cliente, racconta il piatto e quindi insomma è una bella esperienza. Quella però allora il cuoco fa giusto quel piatto lì quel giorno, perché se deve fare lui poi mettersi anche in bicicletta, portarlo al vicino, descriverlo, magari fare anche un assaggino, quello fa, giusto? Sì, allora le quantità sono limitate ed è anche quello che ci permette di portare avanti questo progetto, certo. Per piccole quantità, per consumo domiciliare, diciamo, a casalingo. Ma poi il cuoco porta via anche la schiscetta dopo che ha finito il vassoio? No, la lascia. Come fa la nonna, no? Che quando hai mangiato le lasagne dice, però ridammi la teglia, perché giustamente... No, invece la lascia. Allora, molto bello. Allora, Alessandro da Modena, il nostro ascoltatore, che ci ha parlato tra l'altro del suo esame di maturità nell'84, quale dei due progetti ti ha convinto di più, la casa solare o la... Più la casa dello smart house, la casa solare, sì. Quella il primo dei due. Per un motivo in particolare, Alessandro? Ma mi piace l'idea di finanziare un progetto università, cioè di alcuni studenti che vogliono insomma promuovere che si danno da fare e che hanno avuto un'idea. Va bene, perfetto, Alessandro, il primo giurato. Luca da Bergamo invece vuoi ribaltare? Sono anch'io per il primo progetto, per la casa. Di mangiare bene non ve ne frega niente a nessuno dei due, male, no, molto male, no, perché io invece avrei votato per Mama Meal. No, scherzo. finisci pure Luca? Sì, la prima perché è inserito come sistema di ricerca e di sviluppo di un certo modo di costruire, soprattutto all'interno di una valutazione anche internazionale. Va bene, quindi insomma, anche perché se c'è il sole, perlomeno sfruttiamolo per qualcosa. Bravo, giustamente. Giusto. C'è il sole, ce n'è troppo, c'è caldo, c'è la siccità, almeno usiamolo. Ma invece che stare qua a lamentarci. Ottima sintesi della giornata di oggi. Vedo che insomma l'innovazione, la tecnologia e il bisogno anche di finanziamenti dei progetti di ricerca vince sulla app che invece insomma così sostiene Mama Meal, che vince, è un bel progetto. Vince, ma ricordiamo che comunque non è un concorso per cui un progetto vince e l'altro perde. Li trovate entrambi sulla piattaforma di Apple, insieme anche a tanti altri progetti, quindi andate a farvi un giro sulla piattaforma di Apple. Vincono tutte e due Restart for Smart. Grazie Marco Casini, buona giornata. La vera cucina di casa a portata di app, Anna Laura Diaco. Io mi scarico, io voglio questa app qua e voglio sapere che cosa cucina il mio vicino, perché sento il profumino, ma poi voglio pure assaggiare. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Apple.